9 in punto, la versione di Oscar. Oh, how elaborate flies the end of everything that stands the end. No safety or surprise the end. Cari ascoltatori, buongiorno da Oscar Giannino, buon 25 aprile, festa della liberazione che commemora dunque i martiri, i resistenti, la minoranza degli italiani ma molto attiva che si diede da fare aprendo gli occhi sul ventennio fascista e poi contro l'occupazione nazista, da cui è nata la Costituzione, la Repubblica, l'Italia. Ma è il 25 aprile che noi, oltre a dare gli auguri a San Marco, perché oggi si celebra San Marco, per la storia italiana San Marco è uno di quei simboli che ha fatto l'Italia grande nel mondo con la Serenissima, per quello che mi riguarda, ma oltre a questo, il 25 aprile, in questa trasmissione del coloro che alcuni iniziano a criticare, dicono che sono sempre più esasperato, sempre più ultroneo, fuori linea. Mi scappa da ridere perché si chiede a Radio 24, ed è giusto, di avere una misura che mi chiedo, rispetto a ciò che fa la stampa italiana, se non sia poi la misura il non definire disastrosa una condizione quando essa è disastrosa. Ebbene, io pro tempore finché resto e con poco costrutto, ma mi sembra che la situazione del paese sia crescentemente disastrosa, è quella della sua economia, e che non giovi più ciò che abbiamo fatto per tanto tempo, cioè dire ma non ci preoccupiamo troppo, siamo in una brutta stretta ma andrà meglio. Questo andava bene con la crisi del 2008-2009, in questo caso la crisi europea, che mette sotto schiaffo un debito pubblico così elevato fatto prima, la nostra incapacità di avere competitività nella globalizzazione, che non dipende dalla globalizzazione, l'elevato livello di spesa corrente fatto dalla politica di tutti i colori fino a questo momento e che tutti i colori politici, compreso i tecnici, non abbattono di 5-6 punti in 3 anni, come hanno fatto tutti gli altri paesi per uscire dalla crisi, per dare spazio a minore pressione fiscale. La somma di queste tre cose mi sembra disastrosa, ed è questo che ha portato a far saltare la soglia psicologica, che era una soglia di tenuta sociale, per la quale abbiamo poi avviato la campagna in questi giorni con Sebastiano Berisoni, il direttore Tamburini e il sottoscritto, una campagna che raccoglie anche sì lo stile un po' esagitato che ho io e che avrò finché sarò qua, e che è quello dedicato agli imprenditori che si suicidano, ai piccoli artigiani, ai commercianti, alle partite IVA, a coloro che hanno fatto purtroppo dentro di sé, non hanno più trovato quel freno che per anni nella crisi italiana li aveva trattenuti dal fare gesti estremi e che purtroppo non li trattiene più. Ieri c'è stata un'altra vittima a Napoli, Diego Peludo, 52 anni, che già aveva provato a suicidarsi, era stato salvato dalla polizia e invece poi si è lanciato all'ottavo piano della sua abitazione a Via Cilea, al Vomero, a Napoli. Il 22 aprile un artigiano di Ledibosa, 52 anni, si è suicidato. Il 13 aprile a Donna Lucata, nel Ragusano, un imprenditore agricolo in difficoltà, si è suicidato impiccandosi. Il 13 aprile un altro, un imprenditore la cui azienda era in crisi, si è sparato un colpo di fucile a Montecchio Maggiore, a Vicenza. Il 12 aprile un agricoltore di 53 anni si è ucciso all'Altivola, in provincia di Treviso. Il 9 aprile una donna di 32 anni disoccupato ha tentato il suicidio. Il 5 aprile un artigiano edile 53enne è stato trovato morto impiccato all'interno di un'abitazione al centro di Savona. Non la faccio lunga, ma ce n'è uno al giorno, ce n'è uno al giorno. E allora la mia liberazione di oggi, il senso delle testimonianze che abbiamo, è una liberazione che non solo porta il pensiero a chi ha fatto l'Italia repubblicana e democratica, ma è una liberazione a chi l'ha tradita. È una liberazione che noi dobbiamo avere in testa come obiettivo per levare questa cappa, che è la cappa pubblica nel nostro paese. Pubblica, lo so che irrito tutti coloro che hanno un'idea alta e positiva ed etica dello Stato, ma nel nostro paese, nel suo sviluppo storico, nelle regole che si è dato, in ciò che prende di tasse, in ciò che non ci dà indietro, nelle asimmetriche regole che garantiscono a sé come un bandito il diritto di prenderci quando vuole, mentre invece a noi non ci paga. Ecco, in tutto questo il pubblico è diventato in Italia l'esatto opposto di ciò per cui morirono i partigiani, gli antifascisti di tutti. tutti i colori, fossero essere socialisti, comunisti, democristiani, liberali, azionisti. Ecco, questo è il punto. Non era per fare un'Italia asimmetricamente così incredibilmente lontana da standard di efficienza e di trasparenza. La trasparenza è democrazia, è fondamento di valori che rendono spontanea la compliance, cioè l'adesione a un ordinamento. Nel nostro paese la regola, ce ne siamo occupati, è quella per la quale la discrezionalità politica, la crescente amministrazione di risorse sempre più ampie dell'economia sottratte a chi ne sa fare il miglior uso, cioè gli imprenditori e i lavoratori, tutto questo ha finito per inverare un sistema che è l'esatto opposto di quello per cui morirono quelli che oggi vanno ricordati. Quindi la mia liberazione è una liberazione dallo cattivo Stato italiano, cioè dallo Stato. È una liberazione che vi induce a leggere, a far leggere ai vostri figli il grandissimo libro di Albert J. Nock, Il nostro nemico, lo Stato, appunto. Questo è il titolo e io lo condivido, ma vi voglio far riflettere su queste parole, che scriveva, ohimè, tantissimi anni fa, e che forse per questo vi potranno sembrare anche non troppo fresche, non troppo adeguate, no? Le scriveva, pensate, Giacomo Leopardi, nel Zibaldone, e adesso naturalmente quando uno lo cerca la citazione è scappata di mano. Ora, mentre continuo a parlare, il foglio riuscirà di qua. Ah, che pazienza che ci vuole. Troppe carte su questo tavolo, ragazzi. Arriverà la citazione dello Zibaldone. Ma se la citazione dello Zibaldone non arriva, eccola qua. Scriveva nel febbraio del 1823, pensate, Giacomo Leopardi, in una delle pagine che naturalmente non viene sottoposta ai vostri figli e che sicuramente credo molti di voi non ricorderanno di aver letto al liceo o all'università. Scriveva così: chi mi chiedesse quanto e fino a qual segno la filosofia si debba brigare delle cose umane e del regolamento dello spirito, delle passioni, delle opinioni, dei costumi, della vita umana, risponderei che tanto lo deve fare, tanto e fino a quel punto che i governi si debbono brigare dell'industria e del commercio nazionale a voler che questi fioriscono. Vale a dire, continuava Giacomo Leopardi, che non deve brigarsene il governo né punto né poco. E sotto questo aspetto la filosofia è veramente e pienamente paragonabile alla scienza dell'economia pubblica, la perfezione della quale, cioè dell'economia pubblica, consiste nel conoscere che bisogna lasciar fare, che quanto il commercio interno ed esterno l'industria è più libera, tanto più prospera e tanto meglio camminano gli affari della nazione, che quanto più è regolata dallo Stato, tanto più decade e viene meno, che insomma essa, in quanto scienza dell'economia pubblica di Stato, è scienza inutile, perché il suo meglio è fare che le cose vadano come se ella non esistesse e come andrebbero dappertutto, dove ella e i governi non si intrigassero di stabilire come, dove, perché dovrebbe che andar meglio fossero i commerci e l'industria, che ad andar bene pensano e son bravi di loro. Ve le ricordate queste parole di Giacomo Leopardi? Ecco, questo era Giacomo Leopardi, ad aver dato un po' più retta, forse oggi non saremmo in questi guai. I guai, ve lo voglio ricordare, di un sistema pubblico in cui, mentre le famiglie italiane, mentre le imprese italiane, ribadisco il 15 maggio tutti con Lancia, l'Associazione Nazionale Costruttori, che lancia l'iniziativa nazionale per portare lo Stato e le amministrazioni pubbliche alla sbarra perché non pagano le imprese, sarà inutile, la magistratura darà loro torto, ma gli imprenditori fanno bene, secondo me, l'iniziativa del Lancia, un'iniziativa che dovrebbe indurre tutte le altre associazioni di impresa a fare lo stesso. Lo Stato in tribunale, visto che non sa pagare e invece prende i nostri soldi. Ma vediamo che cos'è lo Stato per cui sono morti migliaia di resistenti, si sono impegnati armi alla mano contro il totalitarismo e hanno regalato alla mia generazione, la generazione di mio padre e mia madre, che ha fatto la guerra sotto le bombe, ci hanno regalato una cosa che noi ci troviamo ad avere. Che cosa? Ad avere 1032 parlamentari nazionali, europei, ministri, sottosegretari, 1366 presidenti, assessori e consiglieri regionali, 4.258 presidenti, assessori e consiglieri provinciali, 138.619 tra sindaci, assessori e consiglieri comunali. e sono 145.000 persone. Poi bisogna aggiungere 12.000 consiglieri circoscrizionali di zona, poverini, questi si impegnano quasi gratis, 26.000 persone che siedono nei consigli di amministrazione delle oltre 7.000 società, enti, consorzi, aziende territoriali per l'edilizia, autorità di ambito controllate pubbliche, tutti quelli che volete voi. Poi ci dobbiamo mettere altre 320.000 persone che hanno un ruolo di supporto politico, perché sono quelli che stanno negli uffici di gabinetto dei ministri, dei sottosegretari, dei presidenti di regione, di provincia, di sindaci, assessori regionali, provinciali, comunali, eccetera. Cioè abbiamo 500.000. Se fate questo conto, ieri me lo sono rifatto leggendo un libro che vi invito veramente a leggere, il libro si chiama Avanti Italia, vincere la sfida con i politecnici, politecnici, staccato, i politecnici, invece questo di me, politecnici sono la somma di politici e tecnici, e l'ha scritto Francis Morandi, è uscito per il gruppo 24 ore, facendo questa somma con il libro Avanti Italia di Francis Morandi mi sono reso conto che ero arrivato già a 500.000 persone che campano di politica, solo facendo questo di elenco, 500.000 persone, che significa che per ognuno ce n'è almeno un altro, sono almeno più di 1 milione di persone che vivono e campano della politica. Io non voglio fare la polemica dell'anticasta, ma un sistema pubblico così è un sistema pubblico che porta in una grande crisi europea come quella con cui siamo le prese da anni ad accelerare la gravità del deterioramento della condizione dell'impresa italiana, a smantellare le radici di quel capitalismo molecolare di piccola impresa che è odiato da molti ma che è stata la vera spina dorsale del nostro paese e che ne ha garantito la coesione sociale. Certo, non è quella l'impresa che fa i grandi risultati sui mercati internazionali, direte voi, e lo so per primo, perché noi abbiamo bisogno invece delle classi dimensionali di patrimonializzazione, tecnologia elevata, non c'è dubbio, e a quello che poi l'Italia è appesa per continuare a stare sui mercati esteri. Ma se viene spazzata via questa mole così ingente di piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, partite IVA, come vedete anche che non sono sostanzialmente cointeressati a Confindustria, non è quello il punto, vedere a quale associazione di impresa sono iscritti. Il problema è che assistere a questa ondata di tsunami che spazza via tutto questo, con l'assoluta indifferenza con cui il sistema politico istituzionale sta assistendo a questo, per noi è un errore gravissimo. E allora oggi abbiamo testimoni, per così dire, di una maniera diversa del pubblico reagire a questi problemi, e prima presentare gli ospiti di oggi, consentitemi di dare lettura a un paio di altre lettere, perché poi proseguiremo nel corso della trasmissione a darne altre. Ce n'era una in particolare di una ragazza di Ravenna di 14 anni che ci parla del padre, ci arriverò perché oggi ho veramente troppe carte in mano. Va bene, passiamo così. Oggi è una giornata nella quale, come vedete, sono più pasticciato del solito. Allora, abbiamo collegato con noi Camilla Gritti. Buongiorno Camilla. E Matteo Camiciottoli, buongiorno anche a Matteo Camiciottoli. Buongiorno. Allora, Camilla Gritti è una cittadina italiana che però dell'impegno politico-amministrativo ha fatto un pezzo fondamentale della sua vita, e ci ha scritto perché la situazione nella quale il suo impegno si sviluppa è una situazione sempre più critica. Camilla, allora, siamo in provincia di Brescia? Siamo in provincia di Brescia, a Castelcovati, è un paese di 6.500 abitanti, l'80% della forza lavoro maschile è occupato in edilizia e in questo momento ho centinaia di disoccupati a casa, solo nel settore maschile. Nell'amministrazione lei che ruolo ricopre? Io sono sindaco. È il sindaco. E ci ha scritto una lettera nella quale Camilla Gritti scrive: sono demoralizzata, a volte le confesso, ho pensato anche a un gesto estremo per sensibilizzare l'opinione pubblica e i politici romani sulle difficoltà che noi sindaci di comuni virtuosi dobbiamo affrontare. La lettera continuava: ho tagliato tutto il possibile, non abbiamo spese inutili, il personale è ridotto all'osso, 14 dipendenti, ma cosa posso concretamente fare in queste condizioni? Perché qui siamo alle prese naturalmente con i tagli alla finanza pubblica, con il patto di stabilità interna che anche ai comuni virtuosi impedisce. E quindi che cosa un sindaco come lei, che ha un'idea di questo tipo rispetto a come funzionano le regole pubbliche, quando la gente protesta, perché ha tutti i titoli per protestare, che cosa può fare oltre che allargare le mani? Allora, io ho cercato di fare le cose concretamente, perché sono un tipo che non mi lascio normalmente abbattere, cioè reagisco e lavoro, sono abituata a lavorare da sempre. E quindi, ad esempio, per trovare lavoro ai miei concittadini ho riunito tutte le agenzie interinali del territorio per aiutarli a preparare un curriculum, perché qui la gente non era abituata ai colloqui di lavoro. Qui fino a 2 anni fa uno diceva ho bisogno di lavorare e trovava subito lavoro, quindi c'era proprio anche questa necessità. Abbiamo fatto delle giornate di formazione su come presentarsi, di come fare il curriculum, o nel bando del comune, quando abbiamo fatto il bando per i rifiuti, ho obbligato la ditta che vinceva ad assumere il personale di Castelcovati. Ho delle idee su magari fare delle cooperative, però alla fine riesce ad aiutare 5, 10, 15, al massimo 20 persone, ma le altre centinaia di persone, cioè soprattutto gente di 40, 50, 60 anni, che non riesci comunque ad aiutare a cambiare, perché è difficile che un muratore tu riesca a riconvertirlo in qualcos'altro. Cosa faccio? Cioè adesso alcuni hanno la disoccupazione o la cassa integrazione, ma tra pochi mesi tutto questo non ci sarà più. Con che cosa daranno mangiare alle famiglie, ai figli? Con che cosa pagheranno tutte queste tasse crescenti? Io ci sto perdendo le nottate a pensare a cosa fare concretamente per aiutare la mia gente, ma tranne che, come dire, quello che ho già fatto, oppure consigliare di andare all'estero. Il mio vicino di casa ha già fatto le carte per andare a lavorare in Svizzera, qualcuno si sta organizzando per andare a lavorare in Algeria, alcuni stanno andando addirittura in Iraq per la ricostruzione. Cioè io non so proprio più dove sbattere la testa, e soprattutto ci devo mettere io la faccia tutti i giorni a quelli che mi chiedono come mai l'IMU, perché tanti soldi dobbiamo pagare, la casa l'ho sudata col mio lavoro, sto ancora pagando il mutuo, io non ce la faccio. Cioè è veramente una situazione difficile, e soprattutto c'è questo senso di impotenza e di rabbia, perché il governo centrale non capisce e fa le cose esattamente l'opposto di come dovrebbe fare. Cioè prima bisognerebbe tagliare gli sprechi. Io ho 14 dipendenti e sinceramente li sto spremendo proprio come dei limoni. Magari lo stesso comune al sud con 6.500 abitanti ha 90 dipendenti, il sindaco ha l'autista, 3 segretari personali. Cioè, se non si taglieranno gli sprechi, noi da questa situazione non usciremo mai, perché non si fanno pagare quei 90 miliardi che devono quelli delle slot machine. Non so, io ragiono come madre di famiglia e quindi ragiono molto semplicemente, probabilmente io non me ne intendo di alta economia. Camilla, secondo me tu ragioni bene, come milioni di italiani e come la politica ha il torto a livello nazionale di non aver capito da 20 anni, replicando sempre la via per cui ha un debito pubblico crescente, cioè un problema patrimoniale, si risponde invece con un conto economico attingendo ad avanzi primari fatti per via fiscale prevalentemente, e in questa maniera lo vedremo, il debito pubblico comunque crescerà quest'anno, non è affatto stabilizzato, non credeteci, andrà al 123-124%, perché il PIL scenderà molto più del previsto, e perché è sbagliata questa linea. E la linea che propone, diceva, da madre di famiglia, da sindaco di un comune di 6.700 abitanti, Camilla Gritti, l'avete appena ascoltata, è secondo me la linea del buon senso, per la quale sono morti contro il totalitarismo quelli che hanno dato la Repubblica. Rendiamola una cosa non oligopolistica, grafica e lontana. Per credere nei valori del vivere comune, della democrazia, della Repubblica, significa che quella parte pubblica di Stato deve essere trasparente, deve essere snella, deve essere capace di essere concentrata su coloro ai quali va garantita l'eguaglianza delle opportunità, mentre da noi abbiamo la fiscalità più ostile alla famiglia, abbiamo un ascensore sociale bloccato, abbiamo il valore legale del diritto di studio a cui gli italiani, ho visto, tengono molto nella consultazione. Ha vinto che cosa? Hanno vinto i dipendenti dell'università, perché quello significa. significa il valore legale del titolo di studio, che viene difeso, mentre invece poi gli effetti di questa scuola fatta per chi ci lavora, dell'università fatta per chi ci lavora e non per la qualità dell'offerta, sono per cui sono paradossalmente opposti a quelli di una buona qualità di un servizio di formazione offerta, perché lo sapete perfettamente che l'economia relazionale, i figli di e gli amici di sono quelli che hanno le possibilità migliori e quelli che hanno il reddito migliore possono andare all'estero a fare formazione migliore. Ecco l'effetto contrario rispetto alle premesse del sistema di formazione pubblico. Per questo leggete Herbert J. Knock, leggete Il nostro nemico è lo Stato, non sempre in ogni epoca, io magari la posso pensare così, ma voi vi dovete concentrare a fare un'equazioncina tutti i giorni, applicatela a qualunque cosa con cui intermediate con il pubblico, avete a che fare con il pubblico, e chiedetevi l'efficacia, la trasparenza, chiedetevi invece quanti disincentivi alla trasparenza, all'efficacia, al miglior allocazione delle risorse viene da tutto ciò che è pubblico nel nostro paese. E nel pubblico, attenzione, ci sono tanti dipendenti pubblici, ieri me ne ha scritto uno che ho voluto ringraziare personalmente, perché diceva: guarda Giannino, che nel settore pubblico mica sono come dici tu, e ha ragione, perché io non voglio essere equivocato, e mi raccontava la mattina di come ci fosse un bidello rispetto al quale, quando lui gli ha chiesto mi puoi pulire quest'aula, ha detto: guarda, nel mansionario di cui abbiamo parlato oggi non c'è scritto con precisione che io devo farlo a quest'ora, e quindi dice: naturalmente io avevo preso lo spolverino e la scopa e l'ho fatto io, ma nel settore pubblico, dice, ci sono tanta gente che non è che la pensa che le cose non andrebbero fatte per il meglio. Certo, però il settore pubblico in Italia, a cominciare da chi lo guida, dalle regole incomprensibili autoreferenziali della cui interpretazione sono depositari solo i vertici amministrativi dello Stato, ecco, questa roba qua nell'Italia è stato il tradimento del sogno di chi ha combattuto contro i fascisti e contro i nazisti, il tradimento assoluto. Non hanno titolo per parlare nelle piazze coloro che dicono che la continuità è la difesa di questo pubblico italiano, è il contrario. Questo pubblico italiano è quanto di più incredibilmente più avanzato, ma coerente all'organizzazione totalitaria inefficiente e discrezionale figlia della generazione dello Stato etico, sia esso rosso o nero. Un'altra testimonianza dal mondo pubblico italiano è la testimonianza che ci dà adesso l'ospite successivo, è Matteo Camiciottoli. Matteo Camiciottoli è il sindaco di Pontinvrea, in provincia di Savona, e a Pontinvrea l'IMU non verrà applicata, e ce lo spiegherà Matteo Camiciottoli tra poco, quindi un 25 aprile, come vedete, è un po' movimentista, però prima abbiamo la pubblicità. Eccoci tornati in studio, brevissimo flash con l'europeo sugli aggiornamenti del perché teniamo i doors. Oggi troverete sul Financial Times, per esempio, un singolare commento nel quale in buona sostanza si dà ragione a Wilders, il leader del partito nazionalista, quello olandese, un po' insomma leghista olandese, per capirci, quello che ha mandato in crisi il governo olandese, paese eurovirtuoso, considerato in tutto e per tutto come la Germania, insomma, della parte dell'Europa tosta, che dice a noi indebitati e poco produttivi che dobbiamo diventare come loro. Il governo è andato in crisi proprio perché il partito nazionalista ha detto: noi non li facciamo, noi li votiamo in Parlamento i tagli che vuole Bruxelles. E incredibilmente il Financial Times dice che tutto sommato non ha mica tutti i torti Wilders, perché dice: ma insomma l'Olanda può aspettare, ha un debito pubblico solo del 65%, quindi il paradosso è che anche l'euroortodossia inizia a sgretolarsi. E da questo punto di vista vi faccio notare che oggi è attesa la stima ufficiale di crescita tedesca per quest'anno, e ci si aspetta uno 0,7%. Tenete conto che uno 0,7% naturalmente è lontano sideralmente dal 3,4% di crescita dell'anno scorso. Stiamo parlando della Germania, e un po' di più delle previsioni di Fondo Monetario, che danno Germania 0,6% quest'anno, ed è un po' meno di quello che prima il Consiglio dei Saggi tedeschi si aspettava, 0,9%, perché significa che comunque, se la Germania cresce così poco, sono cavoli amari per la parte dell'euro debole alla quale noi apparteniamo. In compenso la Grecia cresce ancora meno di quanto non ci si aspettasse, perché il governatore della Banca Centrale Greca ieri ha detto: guardate che secondo me siamo almeno a meno 5% anche quest'anno, non a meno 4%, quindi la Grecia va ancora peggio. La Spagna ieri ha diramato un dato che non piacerà ai mercati, perché il gettito delle imposte diminuisce del 2,5% per effetto della crisi. Tutto ciò significa un pessimo anno PIL Italia quest'anno per la domanda interna, l'erosione del reddito disponibile delle famiglie di fronte alle tasse che crescono, la pretesa crescente dello Stato sulle imprese. Ed è per questo che iniziative come la nostra, ricordo disperati mai @radio24.it, serve e andrà avanti fino a che qualcuno, chi di dovere, apra le orecchie e ascolti. Non faccio finta di non ascoltare. Molti dicono: ma come fate a dire che quei suicidi, la lista di suicidi che ha letto Giannino, sono suicidi economici? Perché queste sono le motivazioni che hanno dato le forze dell'ordine o le prime cose della magistratura nel trovare reperti circostanziali all'atto del suicidio, e quindi questa è la ragione. O credete mica che ce lo inventiamo noi? Se c'è una parte che crede che parlare di questa catena di suicidi, lanciare questa campagna di sensibilità, mettere sul sito, trovate sul sito, iniziate a trovare le testimonianze di coloro che facciano parte del terzo settore o di altre imprese, o siano artigiani, commercianti o professionisti, si mettono a disposizione segnalando la loro volontà di mettere a disposizione di chi ha difficoltà di impresa. Noi non ci assumiamo responsabilità, non possiamo verificare di ciascuno, ma le trovate sul sito della radio queste cose qua, oltre a una scelta di lettere. Non le possiamo mettere tutto perché di alcuni, di molti non sappiamo, non possiamo dare per scontato che ci abbiano dato la licenza di mettere nome e cognome, ma li scegliamo per tipologia o di crisi o perché ci sembrano lettere particolarmente significative. Noi venerdì faremo programmazione per l'intera giornata, cominciando con una diretta congiunta di me e Milan la mattina dalle 8:20 fino alle 10, e poi anche con Barisoni il pomeriggio, ma tutta la programmazione di Radio 24 sarà destinata a questa iniziativa. E poi nel giro di qualche paio di settimane faremo ancora una cosa più rilevante. Ci siamo fermati annunciando in questo 25 aprile dedicato a chi vuole cambiare lo Stato dall'interno, ricoprendo ruoli amministrativi o politici eccetera, ma che non piega la testa, non si rassegna a uno Stato che è la negazione di ciò per cui si fece la Repubblica in Italia. E abbiamo Matteo Camiciottoli, che è il sindaco eletto in una lista civica di questo comune Ponti Imbrea, che è in provincia di Savona, in cui l'annuncio che ce l'ha fatto convocare per qualche minuto rubandogli la mattina del 25 aprile, e l'annuncio è che in quel comune l'IMU, perdonate, questi sono i miei sogni, mi è scappato l'IVA, l'IMU non verrà applicata perché è incostituzionale. È così, Camiciottoli? È così, siamo partiti da quel presupposto, cioè dal nostro punto di vista l'introduzione dell'IMU è lesiva dell'articolo 47 e 53 della Costituzione, fermo restando che pensiamo anche che uno Stato che si reputi tale, quando chiede sacrifici ai suoi cittadini, primo deve avere un grande consenso, una grande credibilità politica, cosa che attualmente non c'è, e secondo dovrebbe dare il buon esempio dall'alto, quindi andando a tagliare quella spesa pubblica che lei prima ha citato. Ma cosa succede? Succede che poi lo Stato si rivarrà su di voi amministrazione o sui contribuenti? Ma per quanto riguarda l'IMU sulla prima casa, che è quella che noi andiamo a togliere, le entrate sono del comune, quindi non andavano allo Stato. E quindi lo Stato lì non può dire niente, se non battervi le mani dicendo siete anche un po' pazzi perché enunciate a delle entrate. Sì, no, non siamo pazzi, noi siamo persone che fa politica con la passione di farla, e abbiamo provato a usare il buon senso in un momento così grave per le famiglie italiane. Anche secondo me siete dotati di buon senso, ma io ho opinione personale, quindi io dicevo lo Stato se dice, se tutti facessero così, infatti loro non ci vengano a chiedere poi i soldi allo Stato centrale e alle autonomie. Mi perdoni, anche questo non sono d'accordo, perché lo Stato centrale, quando ridà i soldi ai comuni, non fa un regalo ai comuni, gli restituisce i soldi dei suoi contribuenti, quindi sono dei cittadini. Anche questo poi lo andremo a vedere. Bravo. Se non ci daranno il contributo che ci passavano prima. Ora poi è tutto da vedere, è tutto in divenire, quindi io mi sono trovato un attimo spiazzato, perché non pensavo che il buon senso potesse fare così tanto clamore, ecco, che dal mio punto di vista la buona politica, perché queste iniziative rischiano anche di essere tacciate come populismo o come antipolitica. Secondo me l'antipolitica si sta facendo a Roma. Esattamente, signor sindaco, le do perfettamente ragione. La reazione, quando domina la discrezionalità come regola e non è il principio del beneficio, quello che Luigi Einaudi definiva il fondamento di un equo sistema fiscale, dove per equo significa che c'è un'adesione spontanea molto elevata da parte dei cittadini che sono convinti di toccare con mano, alla base del principio del beneficio è toccare con mano il più possibile dell'imposta, di qualunque tipo di imposta lo Stato ti chieda, poter toccare con mano come viene utilizzata, e quindi il principio del beneficio è tale, si può estrinsecare meglio quanto più l'utilizzo del denaro è vicino alla fonte che lo prende. Quindi, ma quando un sistema fiscale giunge all'opposto, al massimo della discrezionalità e l'impossibilità per ogni contribuente di capire più del 50% di PIL di spesa pubblica e un 45% di pressione fiscale ufficiale, che però mette, levandoci l'Italia nera che ci mette lista, significa un 54% di pressione fiscale sull'Italia legale, che fine fanno davvero? Perché la discrezionalità e l'opacità, ecco, la cosa incredibile è che quando discrezionalità e opacità dominano sovrano, un gesto di, io lo definisco personalmente, di elementare buonsenso e trasparente, come dire, no, ma noi a questo punto, visto come stanno le cose, cari cittadini del nostro comune, noi non ce li prendiamo questi soldi, ci rinunciamo, può apparire demagogico, può apparire fuori dalle righe, può apparire superbo, può apparire populista e antisistema, quando invece a essere antisistema è lo Stato ladro, questo è il problema. O urlo apposta per cambiando marcia, non perché sia matto, ma perché sono riflessioni che anch'io ho fatto leggendo il lancio di agenzia del sindaco, perché anch'io lì per lì, per riflesso condizionato, ho detto, ma guarda questi per farsi potere. Poi ci siamo detti, ma è possibile mai che io stesso ragioni così? Sindaco, la realtà è che quando voi avete fatto questo annuncio, quali tipi di reazioni sono state predominanti? Guardi, le reazioni, come le ho detto prima, io non mi aspettavo una reazione di questo tipo, ma non dai miei concittadini solamente, ma da tutta Italia. Io ho passato mattinate a rispondere al telefono a gente da tutta Italia che, oltre che complimentarsi, chiedeva come potermi dare una mano. Ma io non abbiamo, noi non, le ripeto, non abbiamo fatto niente di eccezionale. Ci siamo, lei ha citato dei dati prima, no? Anche quelli della pressione fiscale. Allora io, che ragiono molto con la mia coscienza quando vado in comune, ho detto, ma scusate un attimo, qua abbiamo una pressione fiscale del 45%. Chi dovrebbe aiutarci a dare una mano alla gente chiede dei sacrifici, e quando si va a mettere mano alla macchina dello Stato, alla macchina pubblica, il taglio che si va a fare, il massimo è l'1%. Ora, non credo che possa funzionare in questo modo, no? Io non, onestamente, con coscienza, non riuscivo ad applicare una tassa come l'IMU al pensionato con 488 euro di pensione al mese e poi sentire che abbiamo dei politici che dicono di essere poveri con gli stipendi che hanno, o dei deputati regionali che guadagnano più del governatore di New York, o presidenti di provincia che guadagnano più del presidente degli Stati Uniti. Non ha alcun senso, non ha alcun senso. Qua il problema è che purtroppo il cittadino non ce la fa più, e noi vorremmo con questa nostra iniziativa che si allargassero gli orizzonti, che probabilmente la buona politica si fa sul territorio, ma non si riesce a fare nei palazzi dove oramai il potere è incancrinito, cioè non riesce più a uscire da quello che sono le lobby e tutti gli interessi che ci sono e che quindi ai quali devono rispondere. Sul territorio ci sono sindaci, come il mio collega che è in collegamento con lei, che tutti i giorni vanno in comune, tutti i giorni quando scendono a prendersi un caffè vedono il loro cittadino e gli devono rendere conto. Allora, tutto questo, io ringrazio anche Matteo Camiciotto, il sindaco di Ponte Imbrea, vi invito oggi caldamente a rapportarlo a ciò che trovate sulla stampa di Torino, già la mia città. Il titolo della stampa di Torino è una dichiarazione virgolettata del viceministro dell'economia Grilli. E qual è il titolo di apertura, la dichiarazione di questo bel 25 aprile del viceministro dell'economia? Non possiamo tagliare le tasse, prima bisogna consolidare i conti. Questo refrain da quanti anni lo sentiamo, caro Vittorio Grilli, che stimo e conosco? Da troppi anni, e lo sai meglio di me che è così. Dove è la credibilità, visto che un governo tecnico, prima il centrodestra, poi centrosinistra alternato, nel dire che dovete studiare per tagliare la spesa? È una balla. È possibile mai che al cittadino si chieda, contribuenti, in una crisi di questa portata, mentre la gente, i lavoratori dipendenti, gli esodati creati, e poi si crea il casino di dire non sappiamo quanti siete e per favore non state a strepitare e così via, metto i lavoratori dipendenti insieme agli imprenditori di qualunque tipo, ma è possibile mai? che si abbia la faccia di dire: non possiamo tagliarvi le tasse, possiamo solo continuare a succhiarvi i soldi perché dobbiamo studiare. Cosa bisogna studiare? Non è così. Non Oscar Giannino, che ovviamente è un pazzo esagitato. Prendiamo il mio amico Michele Boldrini, che insegna in America. Prendiamo Alberto Bisin, che insegna in America. Prendiamo Sandro Brusco, che insegna in Italia e in America. Se volete vi faccio 20 nomi di persone che saprebbero indicare in 24 ore. Ore! Non giorni o mesi, dopo anni e anni che hanno studiato il tableau degli, non degli sprechi, della consunzione di base elementare di crescita del nostro paese che si deve al settore pubblico, come fare e dove fare per tagliare 6 punti di PIL in 3 anni in equilibrio di bilancio, aprendo spazio a minor pressione fiscale per l'Italia legale e abbattendo nel contempo il debito con cessioni di attivi patrimoniali pubblici, innanzitutto i 500 miliardi di mattoni e poi le migliaia di partecipate locali. Non è vero che dovete studiare, non è vero che dovete consolidare, dovete continuare. Purtroppo, e mi dispiace perché persone per bene come Vittorio Grilli, come i componenti tecnici di questo governo sono sicuramente per bene, ma sono purtroppo diventati, a mia incredibile delusione, corresponsabili di un falso ideologico. È il falso ideologico che mina la credibilità della Repubblica Italiana, che infanga, lo dico con dolore, la memoria di chi è morto per crearla, che non meritava generazioni di cavallette pubbliche sterminatrici come sono quelle nella cui interesse personale e delle cui cosche politiche si identifica i valori della Repubblica, perché vi dicono il contrario, ma la realtà dei numeri sta in questo. E solo per questo, se persino il Quirinale c'ha 6 volte i dipendenti di Buckingham Palace, e parlo del Quirinale perché non è che voglio, sono sospettabile di voler parlare male di Giorgio Napolitano, che naturalmente deve anche lui, come tutti i presidenti precedenti, poi spacciare tagli dello 0,1% rispetto all'aumento inerziale delle spese dicendo: questo è un grande taglio. Il Presidente della Repubblica sa per primo che non è così, ma è prigioniero del suo segretario generale, come ministro sono prigionieri dei direttori generali. Il settore pubblico, se autodepositario del potere di scrivere le norme, non potrà che stendersi e succhiare il sangue a noi imbecilli, che veniamo pure tacciati poi di essere estremisti pericolosi. No, gli estremisti pericolosi sono loro, quelli con il laticlavio, che stendono i benefici e purtroppo fanno delle tasse il peggior nemico della coesione sociale italiana. Mentre torniamo con i Dorsi in sottofondo, un'altra testimonianza di un pubblico diverso. Abbiamo un altro comune, in questo caso un assessore di un piccolo comune del Fermano, Stefano Niccià, ed è un altro dei comuni, abbiamo iniziato a presentarlo in questi giorni, che è deequitalizzato, per così dire, cioè niente Equitalia per la riscossione. A quando risale questa vostra scelta, assessore Niccià? Innanzitutto grazie e buongiorno di essere con noi. Assessore, è con noi? L'assessore non è con noi, vi posso garantire, però adesso ci riproveremo e magari proveremo domani, perché a questo punto io vado avanti invece con la lettura di un paio di lettere. Ecco qua la lettera di Michela, che mi è ricomparsa in mano, che ha 14 anni e che io voglio ringraziare. Frequenta il liceo classico a Ravenna e ci racconta di suo padre e sua madre, sono divorziati e il problema è che la madre ha perso il lavoro quattro mesi fa mentre lui ha dovuto chiudere la sua piccola impresa di pulizia, perché da quello che ho capito, secondo la banca, Michela ha 14 anni, quindi non pretende di dirci se non quello che ha capito, da quello che ho capito, ci dice Michela, secondo la banca non offriva le garanzie necessarie, ha molti arretrati con l'affitto della casa dove vive ora da solo, quindi verrà cacciato a breve e probabilmente tornerà ad abitare con noi, anche se tra un po' faremo anche noi questa fine. Io sto molto male perché lo vedo molto depresso e per lui tornare a casa con la mamma è un'umiliazione dopo, e dice di sentirsi completamente fallito. L'ho visto piangere, sentirlo dire di voler morire. Quello che io vorrei dirgli, per questo ho scelto la lettera di Michela, non per abusare del fatto che ha 14 anni o per creare colore, ma mi ha molto colpito che Michela a 14 anni ci scrive a disperatimai@radio24.it per concludere così: quello che io vorrei dire a mio padre è che a me non importa se viviamo in una casa piccola, anche solo sotto i posti, non mi importa neanche di mangiare o meno se non ho lui, a me basta solo che stiamo insieme. Io non lo considero un fallito, un disonorato o chissà cosa, ma solo l'uomo a cui voglio più bene al mondo, anche solo a pensare che possa ammazzarsi mi distrugge. Questo per dire che a chi pensa una soluzione del genere pensi innanzitutto a noi, cioè ai loro figli, a chiedere se la cosa è davvero importante è la disponibilità economica o la propria presenza. Michela, tu hai ragione, però il problema è che naturalmente chi si trova distrutto avendoci messo una vita intera purtroppo può ragionare diversamente, ed è per questo che noi tentiamo di stare in ascolto. Un'altra lettera al volo. Sono Federico Grianti, ascolto da anni Radio 24 eccetera eccetera eccetera eccetera. Si offre volentieri, Grianti si offre volentieri perché si offre di fare coaching, quindi do voce a questa sua lettera perché sono in tanti, trovate segnalati sul sito della radio chi si offre di dare aiuto. Si offre Federico Grianti di fare coaching a imprenditori che sembrano essere in gravi difficoltà, aiutarli secondo la filosofia del coaching. Ci scrive: la strada migliore perché fa leva sulle loro risorse e capacità. La mia non è consulenza ma allenamento offerto a tutti coloro che credono che non ci sia più niente da fare e che si rassegnano. Non è così, naturalmente trovate i termini degli aiuti di Federico Grianti sul nostro sito. E ringrazio anche Vincenzo Del Vecchio, dottore commercialista, revisore contabile di Nola, che ci scrive anche qui: pronto a offrire servizi di assistenza fiscale, legale, catastale, per essere vicini alle imprese che soffrono nel suo territorio. E ci scrive una frase che conclude con la lettera di Paolo Coelho: il guerriero della luce crede nei sogni ed essi si realizzano. Allora abbiamo oramai pochi secondi, quindi io non voglio chiedere all'assessore Nicciacca, che nel frattempo è tornato con noi, di raccontarci come e perché il suo comune si è decuitalizzato, e gli do appuntamento a domani. E invece i pochi secondi finali a Giulio da Pavia. Prego, Giulio. Buongiorno dottor Giannino, telefono da Provincia di Pavia e volevo portare la mia testimonianza riguardo alle difficoltà delle imprese in questo momento. Io lavoro nel settore autoscuole, sono contitolare con mio padre, socio, e un'altra persona di questa attività che ormai ha piedi da quasi 50 anni. Il Ministero dei Trasporti ha fatto di tutto per mettersi in difficoltà in questi ultimi anni. Siamo arrivati al punto di portare gli esami di teoria delocalizzando le sedi agli esami e portando tutto in motorizzazione a Pavia con delle trasferte sostenibili. E quindi non ce la fate più? Non ce la facciamo assolutamente più, i costi sono aumentati, pretendo il pagamento di trasferte in anticipo, la Banca d'Italia non... Giulio, io la devo interrompere, volevo solo avesse un'idea di quanto lo Stato può riuscire a complicare la vita nel vostro caso a voi. Perdonate, ma continueremo. Buon 25 aprile a tutti, appuntamento a domani. Stato diverso da questo. 9 in punto, la versione di Oscar.